Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Noi ripartiamo da Parigi, dove il ministro degli esteri francese Laurent Fabius ha da poco definito rischiosissimo il progetto britannico di referendum sull'appartenenza all'Unione Europea. A qualche ora infatti dalla visita del premier Cameron, attendendolo, Fabius ha detto: trovo una procedura piuttosto pericolosa. La popolazione britannica è stata abituata a sentirsi dire in tutta la campagna elettorale che l'Europa è una cosa negativa. Quando si va a chiedere il loro parere c'è il forte rischio che dica l'Europa è una cosa negativa. Staremo a vedere. E noi intanto torniamo sul classico ormai di queste settimane, quindi il fronte greco naturalmente in relazione ai conti europei. Ne abbiamo parlato anche questa mattina nei giornali radio. C'era emersa una sorta di forte schiarita. Ora, come spesso è accaduto in questi giorni, c'è una parziale frenata, ma sentiamo il punto nel servizio. Nessun risultato sostanziale. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, gela l'ottimismo del premier greco Tsipras, convinto che l'accordo con i creditori sul percorso di risanamento del debito sia ad un passo. Le cose si sono mosse, ma c'è ancora molto lavoro da fare, dice a margine del G7 di Dresda, dopo che a frenare gli entusiasmi erano stati già il vicepresidente della Commissione Dobrovsky e il ministro delle Finanze tedesco Schäuble. Intanto a lanciare l'allarme la BCE: in assenza di un accordo rapido potrebbero esserci rischi di contagio dei paesi dell'eurozona più vulnerabili. Mentre da Atene arrivano oggi segnali contrastanti, il ministro delle finanze Varoufakis in Parlamento chiede senza mezzi termini la ristrutturazione del debito, il che farebbe pensare a un possibile rallentamento della trattativa. Poi però il portavoce del governo ribadisce che l'intesa è vicina, Atene la vuole entro domenica e sta facendo il suo meglio per evitare il default, uno scenario questo che anche i creditori vogliono evitare. In questo quadro si inserisce il Wall Street Journal, che in un lungo editoriale consiglia ai leader europei a dare un ultimatum definitivo alla Grecia. Una mossa ad alto rischio, ma lo è anche vagare come sonnambuli verso un incidente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso invece parliamo di Frontex e naturalmente della crisi immigrazione. Nei giorni scorsi il nuovo accordo europeo sulle quote, ma come sappiamo all'interno di quel dibattito c'è anche l'aspetto che riguarda il rafforzamento del ruolo di Frontex, quindi l'agenzia per il controllo dei confini europea, con una nuova apertura che riguarda la Sicilia. Al servizio. Verrà aperta tra circa due settimane la sede che Frontex, l'agenzia europea del controllo delle frontiere, avrà in Italia. L'ufficio sarà a Catania, almeno in un primo momento. La scelta, presa insieme alle autorità italiane, riflette il ruolo sempre più importante che l'istituzione comunitaria ha ormai nel Mediterraneo centrale. Nel corso degli ultimi mesi l'agenzia è stata progressivamente rafforzata per dare sostegno alla Guardia Costiera italiana in prima linea nell'affrontare l'arrivo di migliaia di migranti clandestini. Frontex gestisce al largo della Sicilia un'operazione di controllo delle frontiere chiamata Triton. Grazie a un aumento delle sue risorse finanziarie, Triton avrà a disposizione 38 milioni di euro nel 2015. Nei mesi estivi, quando l'arrivo di migranti è particolarmente significativo, Frontex dispiegherà nel Mediterraneo centrale 4 aerei, 6 navi d'altura, 12 pattugliatori, 2 elicotteri. In una conferenza stampa qui a Bruxelles, il direttore dell'agenzia comunitaria, Fabrice Legeri, ha notato che a causa dell'assenza di barconi in Libia, gli immigrati clandestini stanno ormai sempre più spesso giungendo da altri paesi. La Grecia, in particolare, ha registrato un forte aumento degli sbarchi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Bene, con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Naturalmente torniamo stasera e domani per l'ultimo appuntamento di settimana. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.